bisogno di qualcosa che mi dia serenità. Pesa la contesa con l'attesa, ma combino con l'ascesa una nuova puberta. Tu-ra-ra-ra. Per sopportarmi meglio vale pure un appiglio, ma è un sollievo per metà. Dentro casa mi spoglio ed è un complice abbaglio che non vorrei spiegarmi mai. Oh no no no no no no no. Farmi una sorpresa che però non mi farò. Casa, se hai bisogno di qualcosa o soltanto di una scusa che ti dia serenità, serenità. Per sopportarmi meglio vale pure un appiglio, ma è un sollievo per casa mi sbaglio ed è un complice abbaglio e non vorrei spiegarmi mai. Oh no no no no no no no no no no no no no no no. La luce che filtra dalla finestra attraversa tutta la stanza e cade lì sul pavimento, sempre nello stesso punto, ai piedi della sedia, carica di panni, pronti a cadere. La polvere si posa ad ogni altezza, regalando a tutto, senza preferenze, una patina di vecchio. Il letto è sfatto da molto tempo, lenzuola e coperte dormono volgarmente avvolte nelle loro libertà. Nelle loro libertà. L'armadio vomita vestiti in una colata di magma colorato, arginato soltanto dal cassetto della biancheria blu. Così l'ho lasciato e così è rimasto. Così l'ho lasciato e così è rimasto. L'interruttore non funziona e il crepuscolo illumina ben poco. Nella penombra qualcuno mangia l'ultima mela.